Terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Federico si rimproverò la sua devozione, senza stare a pensare che le accuse che gli avevano rivolto, dopo tutto, erano giuste. Che razza di idea quella candidatura! E che asini, che cretini erano mai quelli! Paragonandosi a quella gente, medicava con la loro stupidità le ferite del suo orgoglio. Poi sentì il bisogno di vedere Rosanette. Dopo tante brutture e tanta cattiva retorica, la persona di lei, la sua grazia, sarebbero state un sollievo. Era seduta vicino al fuoco e scuciva la fodera di un vestito. Un'attività del genere lo sorprese. «Oh, bella, cosa stai facendo?» «Non vedi?» rispose seccamente. «Accomodo i miei quattro stracci. La tua Repubblica!» «Cosa c'entra la Repubblica? E perché mia, poi? È mia, forse?» E si mise a rimproverargli tutto quello che era successo in Francia da 2 mesi a quella parte, accusandolo di aver fatto la rivoluzione e che era colpa sua se si andava in rovina, se la gente ricca abbandonava Parigi e se lei stessa un giorno o l'altro sarebbe morta all'ospedale. «Fai presto a prenderti la calma tu con le rendite che hai. E poi con questo andazzo non le avrai più per molto neanche tu le tue rendite». Sotto una simile valanga di sciocchezze, Federico passava dal disappunto di prima a una delusione più pesante. Si era allontanato verso il fondo della stanza. Rosanette gli venne vicino. «Andiamo, ragiona un po'. Un paese è come una casa, ci vuole un padrone. Se no tutti quanti stanno a farsi girare il pollice. In primo luogo lo sanno tutti, Le Dru Rollin è pieno di debiti. Quanto a Lamartine, cosa vuoi che ne sappia di politica uno che fa poesie? No, è proprio inutile che scrolli il capo, sai? E pensi sempre di essere più intelligente degli altri. È proprio così!» Federico se ne andò. La vuotaggine della ragazza, rivelatasi di colpo in quel linguaggio plebeo, lo aveva disgustato. Gli parve persino di sentirsi di nuovo patriota. Naturalmente ritornò da Rosanette. Distesa su un fianco, la guancia destra posata sulle due mani, sembrava un essere così delicato, inconsapevole e affranto che Federico le si fece vicino sull'orlo del divano e la baciò con dolcezza sulla fronte. Lei gli disse allora molte tenerezze. Il principe era partito, sarebbero stati liberi, ma lei si trovava al momento in qualche difficoltà. «L'hai visto anche tu l'altro giorno che mi tocca rivoltare le vecchie fodere?» «Addio carrozza, ormai!» E non era tutto. Il tappezziere minacciava di riprendersi i mobili della camera e del salotto grande. Non sapeva proprio come fare. A Federico venne voglia di rispondere: «Sta tranquilla, ci penserò io». Uscendo dall'anticamera, intravide sulle scale all'altezza del terzo piano il berretto di una guardia nazionale che veniva su. Dov'era diretto? Federico attese. Il tipo continuava a salire con la testa un po' bassa. Finalmente alzò gli occhi. Era Arnoux. La situazione era chiara. Arrossirono tutte e due nello stesso momento, presi dallo stesso imbarazzo. Arnoux trovò per primo la maniera d'uscirne. «Sta meglio, vero?» Come se Rosanette fosse stata malata e lui stesse andando a informarsi della sua salute. Federico non si lasciò sfuggire l'appiglio. «Ah, sì, certo, così m'ha detto la cameriera, almeno», volendo far capire in quel modo di non essere stato ricevuto. Ma restavano ancora faccia a faccia a scrutarsi, incerti sul da farsi. Si trattava di vedere chi dei due dovesse restare. Fu Arnoux, ancora una volta, a risolvere di netto la questione. «Bene, bene, ripasserò più tardi. Dove sta andando? L'accompagno!» Una volta in strada, riprese a chiacchierare con la sua abituale disinvoltura. È chiaro che non era per niente geloso o che aveva troppo buon carattere per prendersela. D'altronde era per la patria adesso che si preoccupava. Non aveva più smesso l'uniforme. Il 29 marzo aveva difeso gli uffici della Press. Durante l'invasione della Camera si era distinto per il suo coraggio e aveva partecipato con gli altri al banchetto offerto alla Guardia Nazionale di Amiens. La relazione di Federico con la marescialla non l'aveva minimamente rattristato. La scoperta, infatti, gli valse, nella sua coscienza, un'autorizzazione a sospendere il mensile che aveva ricominciato a passarle dopo la partenza del principe. Portò a pretesto le difficoltà del momento, si lamentò molto. Rosanette fu generosa. Da quel momento Arnoux si ritenne il suo amico del cuore, cosa che lo rialzò nella stima che aveva di se stesso e lo faceva sentire più giovane. Convinto che Federico desse del denaro alla marescialla, giudicava la situazione veramente spassosa. Arrivò al punto di non farsi vedere, di lasciargli campo libero quando si incontravano. Federico invece sopportava a stento quella spartizione e le cortesie del rivale gli suonavano come una presa in giro tirata per di più un po' troppo in lungo. Tuttavia, mettendosi di punta, si sarebbe tagliato qualsiasi strada per riavvicinarsi all'altra e questo era comunque l'unico modo per sentirne parlare. Il mercante di ceramiche, fosse abitudine o malizia, la ricordava spesso e volentieri nei suoi discorsi e chiedeva persino a Federico perché non andasse più a trovarla. Esauriti tutti i pretesti, Federico assicurò d'essere stato parecchie volte a casa, ma sempre senza trovare la signora. Arnone rimase convinto, anche perché sovente, parlando con lei, aveva fatto le sue meraviglie per l'assenza dell'amico e lei, immancabilmente, aveva risposto che le visite di lui erano andate a vuoto, di modo che le due bugie, invece di elidersi, si corroboravano a vicenda. Rientrato a casa, Federico dormì fino alle 7, poi uscì per andare dalla marescialla. Era fuori con qualcuno, forse con Arnaud? Non sapendo cosa fare, continuò la sua passeggiata sul boulevard, ma a Pont Saint-Martin c'era una folla tale che non poté proseguire. Un numero notevole di operai erano rimasti abbandonati a se stessi, alla loro miseria, e venivano lì tutte le sere, evidentemente per vedersi, per contarsi e aspettando qualche segnale. A dispetto della legge contro gli assembramenti, questi club della disperazione aumentavano in modo spaventoso e parecchi borghesi vi si recavano ogni giorno per seguire una moda e far mostra di coraggio. Federico s'accorse improvvisamente che vicino a lui, a 3 passi di distanza, c'era D'Ambreuse con Martinon. Voltò via la testa. D'Ambreuse aveva fatto approvare la propria candidatura e Federico gliene serbava rancore. Ma il capitalista lo abbordò. «Solo una parola, caro signore. Le debbo una spiegazione. Non ne chiedo affatto. Mi ascolti di grazia». Non era assolutamente colpa sua. Era stato pregato, praticamente costretto. Martinon confermò con prontezza le sue parole. Una delegazione di abitanti di Nogent era presentata a casa sua. «D'altronde ho ritenuto d'essere libero dal momento che...» Un rigurgito di folla sul marciapiede costrinse D'Ambreuse a tirarsi da parte. Dopo un minuto riapparve e disse a Martinon: «È un servizio importante questo, del quale non avrà certo a pentirsi». S'addossarono tutte e tre alla saracinesca d'un negozio per parlare con più agio. Il banchiere era quasi irriconoscibile. Erano 3 mesi che gridava «Viva la Repubblica!». Aveva persino votato a favore della legge che metteva al bando gli Orléans. Ma le licenze dovevano finire. Era, e si dichiarava, così furibondo che andava in giro con un manganello in tasca. Anche Martinon ne aveva uno. Dato che i magistrati non erano più inamovibili, aveva lasciato il suo ufficio ed era ancora più violento di D'Ambreuse. Questi odiava in modo speciale fra tutti Lamartine e con lui Pierre Leroux, Proudhon, tutte teste calde, tutti socialisti. Ma dove vogliono arrivare alla fine? Hanno abolito il dazio sulla carne e l'arresto preventivo. Adesso è allo studio il progetto di una banca ipotecaria. Ieri si parlava, figuriamoci, di una banca di Stato. E lo stanziamento di 5 milioni a favore degli operai? Ma per fortuna è finita e dobbiamo ringraziare il conte di Fallù. Via, via, per carità, e che facciano buon viaggio. Verso le 9 gli assembramenti della Bastiglia e dello Châtelet rifluirono sul boulevard. Da Port Saint-Denis a Port Saint-Martin non era più che un enorme formicolio, un'unica massa blu scura, quasi nera. Poi, a un tratto, tutti esplosero in un canto. «Accendete, accendete!» Siccome molte finestre rimanevano spente, furono lanciati sassi in direzione dei loro vetri. D'Ambreuse ritenne prudente andarsene. I due giovani lo accompagnarono. Il banchiere prevedeva grandi disastri. Il popolo poteva invadere un'altra volta la Camera e D'Ambreuse raccontò a questo proposito che il 15 maggio sarebbe sicuramente morto se non fosse stato per l'abnegazione di una guardia nazionale. Ma già, dimenticavo, è stato il suo amico Jacques Arnoux, il fabbricante di ceramiche. La folla degli insorti minacciava di soffocarlo e quel bravo cittadino l'aveva preso in braccio e portato in salvo. Da allora si era stabilito fra i due un certo tipo di rapporto. Uno di questi giorni dobbiamo pranzare insieme. Anzi, dato che lei lo vede spesso, lo assicuri del mio affetto. È un uomo eccellente, vittima di calunnie, a mio parere. E poi ha dello spirito, sa? Con quella sua aria da grosso cagnone. Di nuovo, carissimo, buonasera, tante belle cose! Lasciato D'Ambreuse, Federico tornò dalla marescialla e le disse con aria cupa che doveva decidersi, o lui o Arnoux. Lei rispose con dolcezza che non ci capiva un H di quella storia, che quanto Arnoux comunque non l'amava, non ci teneva per niente. Federico aveva una gran voglia di andar via da Parigi. Rosanette non s'oppose a quella fantasia e il giorno dopo erano già partiti per Fontainebleau. La mattina di buon'ora andarono a visitare il castello. Dopo colazione fecero venire una carrozza scoperta. Per uscire da Fontainebleau attraversarono un largo piazzale, quindi risalirono al passo una strada sabbiosa dentro un bosco di pini bassi. Entrarono nella selva di Franchard, poi, lasciando sulla sinistra le rovine di un'abbazia, camminando su un sentiero di rocce, raggiunsero il fondo della gola. Mezz'ora dopo misero nuovamente piede a terra per scalare l'altura di Aspromont. La strada sale a zigzag in mezzo ai pini nani, sotto rocce dal profilo tagliente. Tutta questa parte della foresta ha qualcosa di soffocato, di raccolto e anche un po' selvaggio. Rosanette continuava a incespicarvi, era disperata, avrebbe pianto volentieri. Ma una volta in cima le tornò l'allegria. Aveva avvistato, sotto una tettoia di rami, una specie di chiosco dove vendono legni scolpiti. Beve una bottiglia di limonata, si comprò un bastoncino da grifoglio e, senza degnare d'un'occhiata il paesaggio che si scopre dall'altopiano, fece il suo ingresso nella caverna dei briganti, preceduta da un ragazzino che reggeva la torcia. Fuori li aspettava la loro carrozza. Da viaggiatori appena arrivati si seppe che una spaventosa battaglia insanguinava Parigi. Rosanette e il suo amante non ne furono sorpresi. Poi se ne andarono tutti, l'albergo si fece tranquillo. Le luci furono spente. Presero sonno al mormorio dell'acqua nel cortile. Thank you. Federico e Rosannette, in piedi, uno vicino all'altra su un rilievo del terreno, aspiravano il vento, sentendosi penetrare nell'anima dall'orgoglio di una vita più libera e insieme da una sovrabbondanza di forze e da una gioia senza motivo. Federico era sicuro di poter essere felice sino alla fine dei suoi giorni, tanto naturale gli pareva la sua gioia e inerente sia alla sua vita che al modo di essere di quella donna. Avvertiva il bisogno di dirle qualche tenerezza. Lei gli rispondeva con delle parole gentili, con dei piccoli colpi sulla spalla, con delle dolcezze che lo sorprendevano e lo incantavano. Le scopriva, tra l'altro, una bellezza tutta nuova, che forse era solo il riflesso delle cose che li circondavano, a meno che non fosse sbocciata proprio in virtù dei loro influssi, delle loro segrete energie. A volte, in lontananza, si sentiva un rullare di tamburi. Era la mobilitazione bandita nei villaggi per la difesa di Parigi. «Toh, la sommossa!» diceva Federico con disprezzo, con compassione. Tanto agitarsi gli sembrava una miseria in confronto alla qualità eterna del loro amore. Senza volerlo, Rosannette raccontò a Federico dei particolari sulla sua vita. Aveva fatto la signorina in un negozio, era stata in Inghilterra, aveva cominciato a studiare da attrice. Era impossibile, ascoltandola, ricavarne un seguito coerente. Cominciò con un sospiro a parlare della sua infanzia. I suoi erano della Croix-Rousse e lavoravano la seta. Lei aiutava il padre come apprendista. Il povero uomo aveva un bello spremersi, la moglie lo copriva di insulti e vendeva tutto per pagarsi da bere. Compiuti i 15 anni, era venuto un signore, un uomo grasso con la faccia verdastra e i modi da bigotto, tutto vestito di nero. Sua madre ebbe con lui una conversazione e così, 3 giorni dopo, e Rosannette si interruppe. Poi, con uno sguardo pieno di amara impudicizia, «Era belle fatto!» A un gesto di Federico riprese in fretta. «Siccome era sposato e non poteva compromettersi in casa sua, mi avevano portata nel salottino di un ristorante, dicendomi che sarei stata felice e che avrei avuto un bel regalo. Appena entrata, la prima cosa che mi ha colpita è stato un candelabro di vermeil in mezzo a una tavola con 2 coperti. Sul soffitto c'era uno specchio che li rifletteva e sulle pareti delle tappezzerie di seta blu che facevano somigliare il locale tutto intero a un'alcova. Mi ha preso un gran stupore, capirai, una poverina che non aveva mai visto niente. Nonostante lo sbalordimento, però, avevo paura. Avrei voluto andarmene. E invece sono rimasta. Il solo posto per sedersi era un divano vicino alla tavola. Ha ceduto mollemente sotto di me. La bocchetta del calorifero sotto il tappeto mandava un soffio caldo e io me ne stavo là senza toccare niente. Il cameriere, in piedi, mi diceva di mangiare. Mi ha versato subito un bicchierone di vino. Mi girava la testa, volevo aprire la finestra, ma lui mi ha detto «No, signorina, è proibito». E se n'è andato. Sulla tavola c'era un mucchio di cose che non avevo mai visto, ma mi sembrava che niente fosse buono. Allora mi sono attaccata a un vasetto di marmellata. E intanto aspettavo, aspettavo sempre. Chissà cosa gli impediva di venire. Era molto tardi, sarà stata almeno mezzanotte. Non ne potevo più dalla stanchezza. Spingendo via uno dei cuscini per distendermi meglio, sento con la mano una specie di album, di quaderno. Erano dei disegni osceni. Mi c'ero addormentata sopra quando lui è arrivato. Thank you. Rosannette taceva pensierosa, a testa china. Federico le prese la mano. «Come hai sofferto, povera cara!» «Sì, più di quanto tu creda. Al punto di volerla fare finita. Mi hanno ripescata.» «Come?» «Va, non pensiamoci più. Ti amo, sono felice, abbracciami.» E una si tolse le punte di cardo che le s'erano impigliate in fondo alla veste. Federico pensava soprattutto alle cose che non gli aveva detto, attraverso quali passaggi era riuscita a strapparsi dalla miseria, a quale amante doveva la sua educazione, cos'era successo nella sua vita prima del giorno in cui l'aveva vista per la prima volta in casa sua. Le ultime parole di lei rendevano impossibile ogni domanda. Si limitò a chiederle in che modo avesse conosciuto Arnoux. «È stato attraverso la Vatnaz.» «Ma allora eri tu che ho visto con loro due una sera al Palais Royal?» disse la data precisa. Rosannette si sforzava di ricordare. «Ma sì, è vero. Non ero davvero allegra a quei tempi. Arnoux si era dimostrato una gran brava persona. Federico non ne dubitava. Certo però che il loro amico era uno strano tipo, i suoi difetti erano molti. Li enumerò con cura e lei era d'accordo. Ma non importa, gli si vuol bene lo stesso a quel cammello.» «Anche adesso, ancora?» disse Federico. Rosannette diventò rossa. Un po' era offesa e un po' le scappava da ridere. «Ma no, è storia vecchia. Non ti nascondo niente io. E poi, se anche fosse, lui è tutta un'altra cosa. Ti trovo poco gentile, sai, con la tua vittima.» «La mia vittima?» Rosannette lo prese per il mento. «Sicuro?» E storpiando le parole come fanno le balie, «siamo stati un po' cattivi noi. Abbiamo fatto la nanna con la sua mogliettina.» «Io? Ma nemmeno per sogno.» Rosannette sorrise. Quel sorriso lo ferì. Gli parve una prova di indifferenza. Ma lei aggiunse dolcemente e con uno di quegli sguardi che implorano la menzogna: «È proprio vero? Verissimo.» Federico giurò sul suo onore di non aver mai pensato a Madame Arnoux. Era troppo innamorato di un'altra. «E di chi?» «Ma di te, mio bellissimo mostro. Non prendermi in giro, sai? Mi dà fastidio.» Gli sembrò prudente inventare una storia, una passione. Aggiunse particolari circostanziati. Fra l'altro, era una persona che l'aveva reso molto infelice. «Decisamente non hai fortuna», osservò Rosannette. «Ma può darsi.» Quanto alla marescialla, la poverina non aveva mai avuto nulla di meglio. Spesso, quando guardava Federico, le veniva da piangere. Poi alzava gli occhi o li fissava all'orizzonte, come se le fosse apparsa una grande aurora, una prospettiva di felicità senza limiti. Un giorno gli confessò perfino che avrebbe voluto far dire una messa perché porti bene al nostro amore. Come mai allora gli aveva resistito per tanto tempo? Non lo sapeva neanche lei. Federico rifece la domanda parecchie volte e lei, stringendolo a sé, rispondeva: «Avevo paura di innamorarmi troppo di te, gioia.» La domenica mattina Federico vide su un giornale, in un elenco di feriti, il nome di Dussardier. Gettò un grido e, mostrando il foglio a Rosannette, affermò che sarebbe partito immediatamente. «E per fare cosa?» «Ma per vederlo, per curarlo.» «Non vorrei mica piantarmi qui da sola.» «E vieni con me. Andare a cacciarmi in una confusione simile. Grazie mille. Insomma, io non posso. Uffa, quante storie! Come se non ci fossero gli infermieri all'ospedale. Ciascuno si faccia i fatti suoi.» Tanto egoismo lo indignò. Si rimproverava di non essere rimasto laggiù insieme agli altri. Quell'indifferenza per le sventure della patria aveva qualcosa di meschino, di borghese. Tutto a un tratto gli parve che il suo amore fosse greve come un delitto. Si tennero il broncio per un'ora. Poi lei lo supplicò d'aspettare, di non esporsi. «Se per caso dovessero ucciderti...» «Ebbene, non avrei fatto che il mio dovere.» Rosannette fece un salto. «Il suo primo dovere non era quello di amarla? Era chiaro allora che non voleva più saperne di lei. Tutto questo non aveva senso comune. Santo cielo, che razza di idea!» Federico suonò per farsi portare il conto, ma tornare a Parigi era tutt'altro che facile. Thank you.